fatti, la storia e la memoria dell'economia di Dino Pesole. Dai primi scambi di beni e servizi in epoca preistorica al baratto, prima forma di commercio di servizi e manufatti, dall'individuazione di un bene da utilizzare come mezzo di scambio e misura di valore alla nascita della moneta. Nella storia dell'umanità vi è un elemento fondamentale che è alla base dei rapporti commerciali e delle transazioni, dalle più elementari a quelle più complesse, dalle prime forme di baratto ai moderni mercati finanziari. Questo elemento si chiama fiducia. Ne parliamo questa sera, cari ascoltatori, grazie a un libro dal titolo Fiducia e spreco, pubblicato da Transeuropa. L'autore è Massimo Palumbo, funzionario del Parlamento europeo a Bruxelles, economista di formazione ed esperto di legislazione europea. Buonasera e benvenuto. Buonasera, grazie. Nel libro si parla della fiducia come di un elemento prezioso che nutre i vincoli nei rapporti interpersonali e la stabilità delle istituzioni. In particolare questa sera vorrei approfondire la parte del libro che è dedicata al tema della fiducia e i mercati. Nel linguaggio economico si parla di domanda e offerta. Offre chi produce e vende, domanda chi acquista per consumare o per produrre a sua volta altri beni. Comprare e acquistare sono sinonimi, ma in realtà le due parole corrispondono a due diverse fasi della compravendita. La transazione di ogni mercato antico e moderno inizia con l'espressione di un desiderio e termina con un accordo tra i contraenti. Quest'ultimo può risolversi con un pagamento in contanti che chiude subito la partita o assumere la forma di un contratto di compravendita, con una serie di obblighi e impegni presi da entrambe le parti. A differenza dei duelli, la contesa tra compratore e venditore non punta a far vincere l'uno o l'altro, ma a farli pareggiare. Se l'affare non si conclude, ognuno lascia la trattativa senza poter cantare vittoria. Al termine della trattativa, l'accordo sul prezzo ha l'effetto di placare gli animi dei due contraenti, soddisfacendo il desiderio di entrambi, quello di vendere o acquistare, incassando o spendendo una cifra ritenuta prossima o non troppo lontana dalle rispettive aspettative. Allora, Massimo Palumbo, nel libro si ricorre anche alla mitologia greca e latina per aiutarci a comprendere meglio il rapporto tra fiducia e mercati. Ecco, ne vogliamo parlare un attimo? Beh, sì, in effetti questo libro punta, attraverso, come in una passeggiata, attraverso 7 capitoli, a capire il rapporto della fiducia con altrettante parole chiave. Una di queste è appunto nel 6° capitolo, che è anche il capitolo più lungo, il rapporto, indaga il rapporto fra fiducia e mercati. E la fiducia è da intendersi sia in senso interpersonale ma anche in senso sistemico, e questo è molto più importante oggi che in passato probabilmente. La fiducia dal tempo antico è legata al concetto di pace, anche di equilibrio che ci vuole, e non è un caso che i romani, per esempio, avessero già i greci avessero individuato come divinità che cura i commerci Hermes, i greci, e i romani Mercurio. Mercurio ricorda appunto le due parole merce e cura, e quindi è la divinità che si occupa e che cura, che presiede, se vogliamo, come un araldo degli dèi sui buoni affari, sul commercio. Quindi sì, sia la mitologia sia l'etimologia delle parole possono aiutarci a comprendere quali sono, diciamo così, i significati nascosti e le relazioni nascoste che esistono fra la fiducia e i mercati. Oggi come oggi questo è molto importante. Come regola generale, che emerge chiaramente dal libro, vale anche in questo caso la vecchia massima che fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, quindi anche nelle decisioni che attengono ai nostri investimenti finanziari è la stessa cosa più o meno, fiducia è anche questo. Sì, diciamo che nelle relazioni interpersonali noi ci fidiamo di chi conosciamo o di chi abbiamo sentito parlare bene. Diffidiamo di chi non conosciamo o di chi gode di cattiva reputazione. E quello che succede anche nel sistema creditizio, la banca concede un credito a chi lo merita, e si parla infatti anche nel linguaggio finanziario del merito del credito. Però nei mercati finanziari, soprattutto quando si parla di speculazione finanziaria, purtroppo la fiducia non è più basata su elementi di certezza, su indizi certi come la fiducia dovrebbe essere sempre, ma piuttosto su aspettative spesso basate su indizi incerti o contraddittori. E nei mercati finanziari attuali, in cui spesso sono anche gli algoritmi che sostituiscono le persone, voi capite che non è sempre facile potersi fidare, diciamo così, nel senso antico del termine, di queste operazioni. È piuttosto certe volte un atto di fede. Ecco. Dovrei anche aggiungere... Sì. Sì, prego. Dovrei anche aggiungere che probabilmente questo bisogno di certezza, che vale nella vita privata come anche nei mercati, e alla base, per esempio, ci permette di capire meglio gli interventi che fanno la Banca Centrale Europea, le banche centrali in questo momento. Mettono liquidità e grazie alla loro autorevolezza e alla loro credibilità instaurano un clima di fiducia, che è quello di cui i mercati hanno bisogno. Ecco, a proposito sempre di fiducia, nello stesso capitolo si dice che nell'era dell'economia digitale diventa più ardua l'applicazione del diritto della concorrenza e la cooperazione internazionale tra autorità antitrust, che non è sempre sufficiente a garantire il rispetto delle regole. Anche in questo caso il tema della fiducia entra pienamente nel discorso. Assolutamente sì. Nella concorrenza, in fondo, noi parliamo di regole, di diciamo comportamenti che permettono il fair play. E il fair play è un tipico elemento di base dei mercati, ed è necessario anche il ruolo di un arbitro, di una autorità terza che possa garantire il rispetto delle regole, come in una partita di calcio. E in fondo era quello che faceva Mercurio anticamente, era una divinità che doveva presiedere, supervisionare i mercati. Ecco, poi si parla dell'uso della moneta, fondamentale, che ha reso tutto più fluido e funzionale, però, cito dal libro, senza mutare l'elemento alla base dello scambio commerciale, del finanziamento dell'attività economica. Quindi sì, il ruolo della moneta è fondamentale, ma poi va contestualizzato. Infatti, quello che conta, per esempio ho portato l'esempio delle banche centrali, non è tanto il fatto che le banche centrali immettano liquidità, cioè abbiano queste politiche ultra espansive, come si dice, ma il fatto che lo facciano e che siano credibili, perché se non fossero autorevoli, cioè che possono fare le cose e che è credibili al tempo stesso, quindi se non ci fossero questi due elementi che sono tipici della fiducia, i comportamenti non sarebbero conseguenti e quindi ci sarebbe il caos. C'è un elemento fondamentale che molto probabilmente i nostri ascoltatori apprezzeranno in un passaggio del libro, in cui si parla molto chiaramente del tema della fiducia e si dice: con la carenza di fiducia rientra in gioco la diffidenza, e se questa si prolunga non conduce solo alla stagnazione economica, ma genera crisi, conflitti sociali e guerre. La fiducia quindi è un bene di primaria importanza per le nostre società, è però un bene molto labile, cioè si può interrompere, si può infrangere. E quali sono le ricette per provare a mantenerla inalterata? Probabilmente la fiducia è talmente importante per la vita di ognuno di noi che io nel libro lo dico, non esiste in nessuna lingua il termine fratello di fiducia, nonno di fiducia, madre di fiducia. Esiste, può esistere un medico di fiducia, può esistere un amico fidato. Questo ci deve far capire che per la fiducia è importante l'assoluta certezza. Infatti la parola fiducia in latino è legata al discorso dell'attestato. Io porto l'esempio della fede nuziale. La fede nuziale non è soltanto un anello, ma è l'attestato, la prova che due persone sono coniugate. Quindi l'origine, l'etimologia della parola ci aiuta a capire che quello che conta per la fiducia, per mantenerla, è la credibilità di chi si propone come guida, come arbitro, e anche la volontà da parte di tutte le componenti sociali di attenersi a delle regole del gioco. E questo è quello che crea la fiducia e che può aiutare, questo è molto importante, anche nei momenti di emergenza, anche nei momenti di crisi. È quello che differenzia la fedeltà dalla fiducia. La fiducia può aiutarci come la speranza anche nei momenti di difficoltà. Questo è fondamentale. Fondamentale, l'ultima domanda che volevo porle è anche questa del tema della fiducia legato alla concessione del credito, cioè se uno va in banca cos'è se non un atto di fiducia da parte di chi presta nei confronti di chi prende a prestito, quindi è un elemento basilare della nostra vita di tutti i giorni. Assolutamente, il credito è, come la stessa parola lo dice, una prova di fiducia. La banca crede nella possibilità di chi riceve il denaro che questa persona possa restituire la somma. In più chiede una garanzia, anche la garanzia è come il giuramento, come altre parole, sono tutte parole ancelle della fiducia. La garanzia è la prova, come l'ipoteca per esempio, che la persona non soltanto si impegna moralmente, diciamo così, a restituire la somma, ma se non lo fa avrà delle sanzioni, cioè perderà il bene ipotecato, il bene in garanzia, vi dicendo. Quindi sicuramente la garanzia, la fiducia nel mondo creditizio sono fondamentali e molto spesso, come dice La Rochefoucauld, noi diciamo rispettiamo gli impegni del credito non tanto perché vogliamo onorare questo, ma perché vogliamo continuare ad avere la fiducia delle banche in futuro. Bene, allora molte grazie Massimo Palumbo per averci condotto per mano su questo tema della fiducia, grazie a questo interessante libro Fiducia e Spreco. Io ringrazio Alessandro Chiappini in regia, Luca Cremonese in redazione. Cari ascoltatori, alla settimana prossima. Buona serata a tutti.